GR24, il 24 ore. Nuovi attacchi alle scuole cristiane in Kashmir, 3 sottotiro dopo le 18 vittime di ieri. Napolitano contro Di Me, polemiche allusive, bene se prosegue il governo. Attesa per il pomeriggio, i benzinai incontrano il governo per decidere sullo sciopero. Sequestro da 1,5 miliardi ad un imprenditore nel Trapanese, lavorava nell'eolico. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione. In apertura dunque in questa edizione delle 13 gli esteri, perché gli scontri e le tensioni nel mondo islamico dopo la diffusione delle foto di due pastori del Tennessee che bruciano i libri del Corano proseguono. Nuovi attacchi dunque alle scuole cristiane nel Kashmir. La notizia è stata diffusa da Asia News e ci colleghiamo con il direttore Bernardo Cervellera. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Quali dettagli può darci Cervellera? Beh, le notizie che abbiamo ricevuto è che ieri sera, dopo tutta una giornata di scontri tra migliaia di manifestanti e la polizia, e dopo che era stata bruciata già una scuola protestante e una chiesa, sempre protestante, ieri sera anche un grande complesso cattolico, quella del Good Shepherd, del Buon Pastore, la scuola del Buon Pastore, è stata bruciata. Questa volta la polizia è intervenuta e diciamo così, ci sono danni molto gravi, ma comunque non è stata totalmente incendiata e distrutta come è avvenuto per la scuola protestante. Altre due chiese protestanti, la Christ School e la Christ Mohalla School di Poch Jammu, anche questi sono stati attaccati dai musulmani fondamentalisti. E la situazione lì è molto tesa, c'è ancora il coprifuoco dalle 18 in poi, però naturalmente i manifestanti non obbediscono al coprifuoco e anche ci sono minacce quando si esce di giorno per procurarsi di vivere. Insomma, la situazione è tesissima e non si sa bene come andrà a finire. Quanto, secondo lei, dal suo punto di vista, dipende tutto questo dal fatto che gli estremisti islamici abbiano preso la vicenda del Corano come pretesto anche per la questione indipendentista che riguarda il Kashmir? Beh, lì nel Kashmir effettivamente sembra più diciamo così una scusa questo fatto del Corano, del bruciare il Corano, anche perché poi questo Corano, diciamo così, questo pastore Terry Jones ha rinunciato a farlo. Ci sono state delle immagini che sono state diffuse, ma appunto non si capisce bene se sono vere, non sono vere, se erano soltanto delle dimostrazioni oppure addirittura un gioco quasi, perché in Australia ci sono stati alcuni atei che hanno bruciato delle pagine del Corano e anche delle pagine della Bibbia. Però tutto questo è servito per incrementare ancora di più la forza dei fondamentalisti islamici in Kashmir. Quello che noi riusciamo a vedere è che c'è una crescita di fondamentalismo islamico appunto nella zona del Kashmir, che scalza via le vecchie lotte semplicemente autonomiste del Kashmir per radunare i musulmani del Kashmir all'interno di tutta la lotta, di tutto il jihad islamico mondiale. Grazie dunque a Bernardo Cervellera, direttore di Asia News, per essere stato con noi. E noi ci spostiamo alla politica italiana. Poco fa ha parlato il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Ci colleghiamo con Elisabetta Fiorito. Elisabetta. Sì, proprio così Simone, sulla crisi di governo interviene il capo dello Stato Giorgio Napolitano, che apprezza l'impegno del Premier Silvio Berlusconi a proseguire nella legislatura. In politica la stabilità è un valore, il ricorso al popolo non è balsamo per ogni febbre, dice Napolitano, anche se il capo dello Stato parla delle polemiche agostane su di lui che definisce poco garbate e allusive. Riguardo al federalismo, Napolitano auspica lo stop a penose dispute sui conti. Sentiamo il Presidente della Repubblica. L'Italia è impegnata in uno sforzo assolutamente indispensabile e ineludibile di riordinamento, di risanamento, di razionalizzazione della finanza pubblica e anche di contenimento del debito pubblico e della spesa pubblica corrente, ma questo non può far perdere di vista l'imperativo della crescita, che poi è un imperativo vitale per il nostro Mezzogiorno ed è l'imperativo qui siamo tutti tenuti, perché riguarda il futuro dei nostri giovani. Riguardo alla situazione politica, la famosa lista Nucara di 20 deputati per sostenere il governo sembra perdere pezzi ancora prima di essere costituita. Il gruppo di responsabilità nazionale sembra infatti non decollare, smentiscono un possibile coinvolgimento i deputati del gruppo misto appartenenti alla Südtirol Volkspartei e anche alcuni esponenti UDC come il siciliano Saverio Romano. Ma la Lega torna ad avvertire, vogliamo che si approvino in Parlamento i 5 punti per il governatore del Veneto Luca Zaia. Infatti, se Fini non vota i 5 punti, la maggioranza non c'è più. E per il momento qui da Montecitorio è tutto, a voi studio. Grazie dunque anche ad Elisabetta Fiorito per questi aggiornamenti. Noi passiamo a parlare di cronaca, iniziando da Trapani, per il sequestro da 1,5 miliardi di un imprenditore che si ritiene vicino al boss Matteo Messina Denaro, e imprenditore molto attivo nell'eolico. Ha seguito la conferenza stampa degli inquirenti oggi Nino Amadore. Nino, ci colleghiamo con Nino Amadore. Buongiorno Nino. Buongiorno a tutti. Sì, come dicevi, si tratta di una ricchezza enorme, un patrimonio tale da consentire una spesa di 30.000 euro in un mese per il parrucchiere. Questa è una delle curiosità che emerge dal provvedimento di sequestro da 1,5 miliardi appunto, eseguito dagli uomini della DIA di Palermo nei confronti di Vito Nicastri, un imprenditore 54enne di Alcamo in provincia di Trapani. Nicastri è uno sviluppatore di impianti del settore eolico ed è considerato un tipico esponente della zona grigia, spregiudicato e capace di fare affari sia con la mafia siciliana che con le 'ndrine calabresi. Ricchissimo, Nicastri ha avuto anche rapporti con società internazionali. Il provvedimento di oggi, che è stato proposto dal direttore della DIA, il generale dei Carabinieri Antonio Girone, si iscrive nel solco delle novità nelle misure di prevenzione patrimoniali che vanno avanti al di là del procedimento penale. Ma sentiamo quello che dice il generale Girone. Noi con questa proposta formulata, accolta pienamente dal Tribunale, abbiamo ritenuto di dimostrare adeguatamente questa contiguità di attività, nel caso specifico fonti alternative, con le organizzazioni mafiose. E restiamo sulla cronaca con la conclusione del misterioso sequestro lampo di un imprenditore nel napoletano. Ci colleghiamo in diretta con Paolo Picone. Paolo. Sì, l'imprenditore nolano Antonio Buglione è tornato libero stamattina dopo un sequestro lampo durato poco più di 24 ore, che appare per ora un mistero sul quale gli inquirenti stanno cercando di far luce. La liberazione di Buglione, secondo quanto riferito da un parente, sarebbe avvenuta questa mattina nelle campagne di Marigliano. L'uomo sarebbe stato incatenato con il collo in un casolare di campagna, segregato per tutta la notte, poi sarebbe riuscito a liberarsi e a raggiungere l'abitazione di conoscenti. In provincia di Napoli, a Saviano, nella sua città natale, dove c'è anche la sua azienda, l'Istituto di Vigilanza Privata, tirano un sospiro di sollievo i dipendenti, che noi andiamo ad ascoltare. Siamo felicissimi, contenti, perché a togliere la libertà a un essere umano non è giusto, e quindi siamo contentissimi, io come tenente, anche il sindacato e tutti i dipendenti che lavorano presso questa azienda. Purtroppo siamo felicissimi che l'evento si è svolto nel modo migliore. Contentissimo, proprio umanamente, mi batte il cuore perché ero preoccupato naturalmente. E grazie dunque anche a Paolo Picone per questi aggiornamenti. Noi ci spostiamo a parlare della vicenda del peschereccio che ha subito un mitragliamento da parte di una motovedetta libica. Sentiamo quali sono gli aggiornamenti. Tra l'altro c'è un botta e risposta tra il ministro dell'interno e lo stesso capitano del peschereccio. condannano l'accaduto, assicurano indagini, ma si affrettano a chiarire che nulla cambia nei rapporti tra Italia e Libia. Prima il ministro dell'Interno, poi quello degli Esteri, definiscono come un incidente grave, ma pur sempre un incidente, dicono, il caso del peschereccio di Mazara colpito a mitragliate. Studieremo le misure perché non accada più, annuncia il titolare del Viminale, che ha riunito i suoi tecnici per valutare soprattutto le regole di ingaggio dei militari italiani a bordo di motovedette come quelle di ieri, una cioè di quelle donate proprio da Roma a Gheddafi negli accordi contro l'immigrazione clandestina. Forse l'avranno scambiato per un barcone di migranti, ipotizza Maroni, ma il comandante del peschereccio Ariete, Gaspare Marrone, dai microfoni di Radio 24 non ci sta. Innanzitutto non si può scambiare un motopeschereccio di 36 metri per un barcone. Mi ero identificato come motopeschereccio, nazionalità. Io ho parlato personalmente con il comandante della motovedetta, parlava benissimo l'italiano. Dopodiché, se era un barcone di clandestini, che fa? Li ammazzavano tutti. Assicura che era di passaggio in acque internazionali e lo ha ripetuto anche ai PM di Agrigento, che indagano per tentato omicidio plurimo aggravato e danneggiamento di nave. Marrone aveva paura di essere sequestrato dai libici, racconta, come più volte è successo già ad altri pescherecci come il Luna Rossa, e a Mazara raccontano anche di altre barche già colpite da proiettili. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso parliamo del nostro sondaggio di oggi, dedicato al tema dell'affido dei figli. Secondo voi c'è parità di trattamento tra padri e madri? I no sono stati i sì sono stati il 6%, i no sono stati il 94%. Fa infatti ancora discutere la vicenda del portiere del Brescia, Matteo Sereni, a cui la moglie non fa vedere i figli, o almeno così lui sostiene. La moglie sostiene una cosa diversa e che domenica li ha dunque salutati in diretta TV. Sereni, uno dei tanti padri che lamentano la difficoltà appunto di vedere la propria prole, da tempo le associazioni dei padri separati sostengono che le madri siano ingiustamente favorite dai tribunali dei minori. Fra questi il conduttore TV e padre separato Tiberio Timperi ai nostri microfoni questa mattina. I figli vengono sempre affidati alla mamma. Quando un papà che vuol fare il papà, perché poi ci sono anche quelli che se ne fregano, certo. Quando un papà vuol fare il papà e chiede al suo avvocato, chiediamo l'affidamento, l'avvocato ti risponde è impossibile. E allora se un avvocato ti risponde che è impossibile, vuol dire che la legge non è uguale per tutti. Padre e madre non hanno gli stessi diritti. La mamma è più uguale davanti alla legge, il papà no. Qualche dubbio invece sul comportamento dei padri dalla giornalista TV Ritanna Armeni. Il processo culturale è importante. Il processo culturale dice, e questo come dire alle donne non può secondo me che far piacere, che oggi ci sono molti uomini che vogliono essere responsabili della loro paternità. Va di bene, questa è una cosa che nel passato non c'era, c'era molto di meno, e questo è sicuramente un fatto positivo. La mia domanda però, domanda che pongo a me stessa e a tutti, è questa: questo senso di responsabilità c'è sempre o c'è solo al momento del divorzio? Perché viene fuori in quel momento e non viene fuori prima? Siamo al calcio, nella chiusura di questa prima parte del giornale radio, con la Champions League. Subito in campo l'Inter campione in carica. Torna a suonare la colonna sonora della Coppa dalle grandi orecchie. L'ultima volta che l'abbiamo ascoltata è stato a Madrid, in una notte di maggio tutta nerazzurra. Come è andata a finire poi lo sappiamo. Sull'aereo di ritorno dal Bernabeu, José Mourinho praticamente non è mai salito, preferendo la magia del Real all'adorazione del popolo interista. E allora i campioni di tutto ripartono da Rafa Benitez, che pure non dimentica lezione e trionfi dello Special One. Importante sapere che la squadra ha vinto da prima, questo è buono per la mentalità, per la fiducia. È importante sapere che si è fatto lavorando tanto, giocando le partite con intensità, questo è il cammino. Essere diversi dal passato ma ancora vincenti, con un nuovo timoniere. Questa è la prima sfida dei nerazzurri, che ricominciano da Enschede, Tana del Twente, campione d'Olanda. Ci vorrà poco per capire se anche l'Inter di Rafa potrà essere speciale. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nella prima parte del giornale radio abbiamo parlato dei nuovi attacchi alle scuole cristiane in Kashmir, abbiamo parlato delle parole del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano anche sul governo e di cronaca con il sequestro da 1,5 miliardi ad un imprenditore nel Trapanese. Ora parliamo dello sciopero dei benzinai. Ci colleghiamo in diretta con Vincenzo Miglietta per fare un punto della situazione a pochissime ore dall'incontro tra governo e gestori. Vincenzo. Sì, buongiorno, l'appuntamento è per le 15 al Ministero dello Sviluppo. Governo e gestori degli impianti di benzina tenteranno un'ultima mediazione per scongiurare lo sciopero di 3 giorni. In mancanza di un accordo la serrata scatterebbe già questa sera dalle 22 in autostrada e domani mattina nel resto della rete di distribuzione. Al tavolo parteciperanno il sottosegretario allo sviluppo Saglia e FAIB Confesercenti, FEGICA e FIGIC Commercio. Lo sciopero, rivendicano i gestori, è stato proclamato contro la politica di governo e imprese petrolifere che tenderebbe a ridurre il numero di impianti serviti presenti sul territorio. Il rischio, denunciano i sindacati, che 25.000 gestori e 75.000 addetti agli impianti perdano diritti e lavoro. Il governo tuttavia avrebbe già delle proposte concrete per superare lo stallo, si dice allora ottimista il presidente della FIGIC Luca Squeri. Senza segnali di apertura la protesta va avanti, rilancia invece il presidente della FAIB Confesercenti, Landi. E da Roma è tutto. Grazie dunque a Vincenzo Miglietta. Passiamo a parlare dei dati che sono stati diffusi questa mattina dalla Banca d'Italia su entrate e debito. Arrivano da Banca Italia 2 cattive notizie per i conti pubblici italiani. Le entrate tributarie, emerge dai dati diffusi oggi da Via Nazionale, sono diminuite del 3,4% nei primi 7 mesi dell'anno, fermandosi poco oltre i 210 miliardi di euro, e solamente a luglio sono scese a 36,2 miliardi. Male anche il debito pubblico, che ha segnato un nuovo massimo storico a 1.838 miliardi di euro. Malgrado l'aumento del debito, l'Italia tuttavia resta al riparo dalle turbulenze e continua a finanziarsi sui mercati internazionali con relativa facilità. Ieri le aste dei BTP a 5 e a 30 anni si sono concluse con un buon successo. Le richieste hanno spinto al ribasso il rendimento del BTP a 30 anni, sceso sotto il 5% lordo. In lieve rialzo invece il BTP a 5 anni, salito al 2,69%. Claudio Celio da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Da segnalare che i criteri con i quali la Banca d'Italia calcola le entrate sono diversi da quelle del Ministero, il quale ha diffuso poco fa i dati. La Ragioneria Generale parla di una variazione negativa del 3,1%. 20 di ripresa. L'Italia che riparte. Nel 2010, a fine agosto, abbiamo avuto un incremento di fatturato di circa il 20%, siamo passati a circa 42 milioni dai 35 milioni dell'anno precedente. L'anno scorso abbiamo avuto una flessione abbastanza importante. Sottolinea la crescita Franco Coppo, amministratore delegato di San Bonè, società fondata nel 1856 a Vercelli ed entrata nel 97 a far parte del gruppo Paderno, oggi leader di mercato nazionale e internazionale nella produzione di articoli di design, vasellame, posaterie in acciaio, per la tavola e per la cucina, soprattutto per il settore alberghiero. Nel luglio 2009 il gruppo ha acquistato per risanarli gli asset e i marchi Rosenthal, prestigiosa società tedesca del settore delle porcellane e dei complementi per la tavola. 1.000 dipendenti contro i 260 di San Bonè. Ecco come l'azienda ha agganciato la ripresa. Abbiamo messo in campo diverse azioni. Innanzitutto abbiamo incrementato la nostra offerta di prodotti. Abbiamo inoltre incrementato il nostro tipo di offerta con un'acquisizione molto importante, che è stata quella della Rosenthal Germania. Per il 2010 le prospettive sono abbastanza buone. Contiamo di recuperare completamente la perdita di fatturato che abbiamo avuto nel 2009 rispetto al 2008 e impostare un'ulteriore crescita nel 2011. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E torniamo a parlare di scuola. La giornata di ieri si è aperta con problemi non solamente in Italia, ma anche in Francia. Dunque, qualche storia dal nostro paese e qualcuna d'Oltralpe. Edifici fatiscenti e cattedre vacanti, classi sovraffollate, dove mancano banchi, sedie, lavagne, laboratori fantasma, presidi part-time. Benvenuti nella scuola italiana del 2010. Tutto regolare, ha detto ieri il ministro dell'istruzione Gelmini, polemiche scontate, ma questo inizio d'anno sembra essere più faticoso del solito. C'è per esempio a Milano il preside, quello dell'istituto Schiaparelli, che a causa del vuoto di organico è costretto a gestire 5 scuole, mentre all'istituto San Marco Argentano di Cosenza non sanno dove mettere 25 studenti, non ci sono i soldi per un'altra classe. Il professor Liparoti. Questa mattina c'è stata una manifestazione in piazza, questi alunni noi non li possiamo accogliere perché abbiamo già 34 e 33 alunni nella classe, quindi noi siamo costrette a mandarli in altre scuole. Da Cosenza a Roma, dove all'Istituto Farnesina ha esordito l'attesissimo liceo musicale. Peccato però che non c'era l'insegnante di musica, ma con un po' di inventiva si è riusciti a tamponare la situazione, la preside Olga Olivieri. In questo momento stanno facendo solo l'orario ridotto con le materie del curriculum di base e poi dalla settimana prossima avranno tutto completo. Ma i più fantasiosi sono stati i ragazzi del liceo Machiavelli di Roma. Mancano i banchi e ne dividono uno in tre. Alessandra Schepisi, GR24, Sole 24 Ore, Roma. A partire dal rientro a scuola in Francia lo scorso 2 settembre non cessano le polemiche sui tagli al numero di docenti deciso dal governo. Meno 16.000 posti dopo che 30.000 erano già stati eliminati nei due anni precedenti, e nonostante che per il 2010-2011 si siano presentati 7.000 studenti in più. Ebbene, a Lix, ridente paesino di poco più di 2.000 anime nel sud del paese, non hanno sentito storie dopo che hanno capito che i loro figli si sarebbero ritrovati in classe di 31 bambini. I genitori della scuola elementare hanno deciso di occuparla. Hanno iniziato lo scorso 6 settembre senza ottenere granché, ma ieri sera hanno deciso di passare alle maniere forti sequestrando una supplente. Nella notte finalmente è arrivato l'accordo con il provveditore. Alix avrà diritto a un insegnante in più, anche se part-time. In Francia, già prima degli ultimi tagli, le classi delle elementari contavano una media di quasi 23 alunni contro i 18,6 dell'Italia. Leonardo Martinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi. Siamo in chiusura e parliamo di Miss Italia, un'edizione coronata, costellata dalle polemiche. Una prima serata che, seppur in calo d'ascolti rispetto alla passata edizione, aveva fatto ben sperare i vertici Rai. Una contrazione nella seconda. Ieri, giorno della finalissima, il recupero. A fronte di una debole controprogrammazione, Miss Italia vince la sfida degli ascolti relativa al prime time con uno share del 29%, in miglioramento rispetto al 2009. Merito forse dello scandalo trans o dell'uscita del capostruttura Rai, Antonio Azzalini, che durante la conferenza stampa ha definito le passate edizioni del concorso un'esposizione di carne. Forse di entrambi, forse del tentativo di innovare. Nei palinsesti spopolano talent show e reality e anche Miss Italia si adegua, come nel caso di Alessia Mancini, Miss Lazio, indicata nei blog di gossip come la presunta trans del concorso. Le lacrime e la smentita in diretta, la pubblicazione delle foto di lei da bambina, la solidarietà di organizzatori e giurati dopo l'eliminazione e il ripescaggio di ieri. Nel calderone finiscono anche politica e calcio, con la presenza tra le Miss della ex di Renzo Bossi e Mario Balotelli. Per non farsi mancare nulla è stato scomodato anche l'eroe dei due mondi. In occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, alla finale era presente Anita Garibaldi, pronipote di Giuseppe, che ha denunciato la salma del bisnonno non sarebbe più a Caprera. Qualche fanatico se ne sarebbe impossessato. Miss Italia, accostamento ardito e confuso di verità e finzione, storia e leggenda. Ambra Notari, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Oh, naturalmente non ve lo abbiamo detto, ma già lo sapete che Miss Italia 2010 è l'umbra Francesca Testa Secca, 19 anni, di Foligno. Ed è tutto per questa edizione di GR24, condotta e curata da Simone Spezia, coordinata da Maria Piera Ceci, con in regia Carmelo Lauricella. Il prossimo giornale radio alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.